i guai solo perché sono uno sfigato. Se giri con me sarei ridicolizzato. Sono il risultato di questo mondo malato. Pensavo che da qualche parte sarei pure arrivato, ma più che un punto d'arrivo è un processo involutivo. Sono involontariamente invogliato al negativo. Lo vedi da ciò che scrivo, da come sono esaustivo. Zio, dal mio giudizio sempre troppo selettivo. Se sono pazzo è solo perché tutti cercano sempre di cambiarmi secondo i loro gusti. Si credono meglio di me, pensano di potermi insegnare a vivere, a fare rap. Amico, non c'è da stupirsi che il tuo disco sia un flop. Come fai a fare rap se non sei niente di pop? Quanto in parte ti pensi di essere Lupi e Fiasco, bro? Lasciatelo dire, la tua musica che è un fiasco. Dici che senti fibra dagli esordi, poi se dico uomini di mare tu manco te li ricordi. Sei convinto di essere inserito nella scena, al massimo per far fit con Cristina D'Avena. Desolato ma non sono pagato come Fizz, piuttosto faresti meglio a restare al tuo posto, perché lo sai che se non resti più al tuo posto, se sei mal disposto allora fa te gonfio. Che ci vuoi fare se io sono così? Se io sono così e tu non puoi cambiarmi, che ci vuoi fare fa? Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare fa? Non puoi cambiarmi. Io ho di buoni costumi, ho di luoghi comuni, odio te che ti vanti che non bevi eppure fumi. Odio il fatto che finché sei vivo non sei nessuno. Forse se muoio divento un idolo come ciò che sano. Chi non si fa i cazzi suoi vede strano e si sente autorizzato a farmi il terzo grado. Chi sminuisce tutti gli argomenti di cui io parlo, chi dice che sono sfigato perché vesto largo, io non è che vesto largo, vesto big and tall. In testa non ho cervello, baby, ho un black hole. Non posso vantarmi di avere un black cock. Non mi vanno neanche i condom di taglia small. Sono così, non puoi amarmi, io non sono perfetto, però mi puoi aiutare a migliorarmi in ogni aspetto. Soprattutto non affermare mai se non conosci. Secondo, non giudicare mai chi non conosci. Non so come faccio a stare sul cazzo delle persone che non mi hanno mai parlato, non sanno neanche il mio nome. Ma la Tina va così, la conosco la situazione. Secondo le apparenze si fanno un'opinione e non ci faccio caso se mi lanciano merda. Ma fermo il resto del mondo è battaglia aperta. Se non vi piaccio non è un mio problema, non sono io a dovermi adattare al vostro sistema. Che ci vuoi fare se io sono così? Se io sono così e tu non puoi cambiarmi, che ci vuoi fare fa? Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare fa? Non puoi cambiarmi. Che ci vuoi fare se io sono così? Se io sono così e tu non puoi cambiarmi, che ci vuoi fare fa? Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Troppo tempo ho pensato che aveste ragione voi. Vi ho dato retta, mi sono convinto che io dovessi cambiare. Dovessi cambiare per adeguarmi a quello che ho intorno. Ma adesso ho capito che non deve essere così. Non mi importa se i vostri occhi sono strano, se sono diverso. Quello che mi interessa non è andarvi a genio. Io sono così e non cambierò. Che ci vuoi fare? Rassegnati amico. Se non puoi farci niente, non puoi farci niente.